America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. L'inno dei Marines, ve l'ho fatto ascoltare perché oggi l'America è chiusa, celebra il Memorial Day Weekend, la festa, la giornata dedicata ai caduti, è una festa importante, grandi parate un po' dappertutto, questa musica che vi ho fatto ascoltare è soltanto una delle tante che si ascolteranno in migliaia di piccoli paesini americani. Allora, perché il Memorial Day? Beh, diciamo, è la giornata, vi dicevo che è dedicata a tutti i caduti di tutte le guerre, però ha una sua origine. L'origine è con la guerra di secessione. La guerra di secessione, ci furono alla fine oltre 600.000 morti, 650.000 morti. Quindi si decise a un certo punto che bisognava in qualche modo rendere onore a queste vittime e si stabilì appunto il Memorial Day. Uno strano calcolo, devo dire, del New York Times che ho letto questa mattina dice che se si fosse fatta la stessa proporzione per il monumento ai caduti al Vietnam, in Vietnam ci furono 58.000 caduti, anche loro sono ricordati oggi, le vittime in proporzione sarebbero state 4 milioni. Beh, una cifra ovviamente spropositata, non ho capito bene come l'hanno calcolata. Ma oggi, a parte questa festa americana che tiene l'America chiusa, voglio parlarvi di un'altra cosa, di una esperienza straordinaria di Oscar Farinetti, nostra vecchia conoscenza. L'abbiamo intervistato quando ha aperto Italy a New York, cambiando il volto della gastronomia italiana qui nella Grande Mela. Ebbene, e ne ha combinata un'altra, ha fatto una traversata atlantica con una barca dedicata alla gastronomia italiana, dedicata al Barolo, dedicata al formaggio parmigiano. Cominciamo a sentirlo un attimo. Buongiorno Oscar, com'è andato questo viaggio? Il viaggio è andato benissimo, abbiamo sempre avuto il vento di traverso da dietro, una cosa incredibile. Soldini non credeva ai suoi occhi, dice che non gli è mai capitato di attraversare l'oceano con una facilità simile, ma lui non aveva tenuto conto della solita fortuna che io mi porto dietro. Bene, abbiamo sentito questo da Oscar, ma non vorrei parlare con Oscar oggi. Con Oscar parliamo giovedì, perché giovedì ci sarà l'ingresso formale nel porto a New York, ci sarà la consegna di un progetto, sette movimenti, sette cambiamenti che lui propone per l'Italia, e ha avuto con lui a bordo vari personaggi, tra cui Alessandro Baricco, il grande scrittore che ha fatto una tappa con lui. Quindi cominciamo a sentire da lui come è andato questo viaggio e quali erano gli obiettivi. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Allora, intanto parliamo di questa esperienza in barca a vela, di questo crew, di questo equipaggio molto particolare, perché è un equipaggio fatto così di scrittori, di imprenditori, di cuochi, di intellettuali. Qual è la storia? Di base l'equipaggio è formato, diciamo, da due, un mercante e un navigatore, come ama dire Farinetti, cioè Oscar Farinetti e Giovanni Soldini. Dopodiché Oscar ha invitato su questa barca persone con cui pensava che sarebbe stato bello navigare e anche chiacchierare, riflettere, dibattere un po' sui temi che gli interessano. Molti sono imprenditori, perché a Farinetti piace comunque avere a che fare con persone che se non fanno proprio esattamente il suo mestiere, se fanno mestieri vicini. E poi sono stati anche scrittori, cantanti, attori. Mi sembra che ci sia, come dire, una matrice piemontese di fondo, perché Oscar, ovviamente, lei e poi altri, ho visto, insomma, hanno radici profonde a Torino, in Piemonte. Come la spieghiamo questa storia? No, questo è facile da spiegare, perché per i piemontesi il mare è un sogno, perché è abbastanza vicino dall'aver visto gente che è andata e tornata e leggere gli effetti del mare sulle loro facce. E però è quel giusto lontano, perché il nostro mondo sia completamente differente. Noi siamo nella nebbia, nella temperatura più fredda, abbiamo le montagne. Andando in barca, Alessandro Baricco che libri si porterebbe? Uno o due libri da rileggere me li porto sempre. Sono libri che naturalmente devono essere passati almeno 20 anni da quando li ho letti, ma che con piacere rileggo. Recentemente ho riletto, ad esempio, L'educazione sentimentale di Flaubert, Dopodiché, ma io leggo molti libri di saggistica, ecco. Qual è il libro di saggistica che l'ha colpito di più recentemente? Ma uno che non è recente, però io farei sempre leggere perché è veramente mozzafiato. Cioè, sono due, diciamo. Uno si chiama Armi, Acciaio, Malattie, pubblicato da Einaudi, ed è un libro che ricostruisce le linee della civiltà, cioè perché i bianchi sono arrivati in America e hanno disfatto la civiltà degli indigeni, ecco, ad esempio. Cioè, perché questi erano più furbi, più ricchi, ecco, ripercorre il crescere dagli albori della civiltà cercando linee di forza. Un altro libro veramente molto bello è il titolo Il Grande Gioco, che invece è pubblicato da Adelphi, che descrive negli anni, nei secoli, la storia delle guerre dell'Asia centrale, in particolare poi nella grande sfida tra inglesi e russi, sostanzialmente in Afghanistan, ecco, in questo incrocio di strade, di ricchezze, di civiltà. C'è la lotta che è stata talmente cronica, prolungata e vissuta in maniera poi eroica e passionale, con degli episodi incredibili, che fu poi battezzata Il Grande Gioco. Ecco, lei ha scritto un altro libro, Novecento, che è ambientato a bordo di una nave che fa la spola fra Europa e Stati Uniti negli anni 30. Ecco, come le è venuta l'ispirazione per questo libro e soprattutto che idea aveva dell'America vista da Torino prima di venirci? Ma Novecento, me lo richiedono in tanti, non mi ricordo come è venuto in mente questa storia. Avevo una grande passione per i transatlantici, soprattutto gli anni 20, 30, quella vita lì. Quindi avevo letto molti libri, avevo ritagliato molte cose e sapevo che prima o poi mi sarebbe piaciuto ambientare una storia lì. Però ecco, la storia del pianista che è nato su un transatlantico e muore lì, questo lo so che me lo chiedono in tanti, ma non mi ricordo il momento in cui mi è venuta. Quanto a me, sono andato negli Stati Uniti per la prima volta molto tardi per festeggiare Oceano Mare. Quando l'ho scritto mi sono premiato andando in California per un mese a Pasadena a studiare l'inglese, che non sapevo, e non mi immaginavo niente, non sapevo niente. In grosso modo avevo in mente Paperopoli, era un incrocio tra Paperopoli, dei film hollywoodiani che avevo visto, qualcosa che avevo letto, ma piuttosto immaginario, ecco, diciamo. E naturalmente ne sono rimasto innamorato, ecco, ovviamente, soprattutto la California, è facile cadere innamorati, ecco. E da lì quindi è iniziata poi tutta una serie di viaggi e scoperte varie. Scoperte di che genere? Per esempio letterarie? No, beh, letterarie non tanto, perché uno che viene dall'Europa poi alla fine capisci più Faulkner se hai visto i posti dove sono ambientati i suoi romanzi, certamente. Ma insomma, però alla fine credo di aver scoperto più altre cose negli Stati Uniti, un'altra etica, un'altra idea di nazione, un certo infantilismo, una superficialità che allora non conoscevo, che poi ho visto riverberare anche in Europa, una cultura pop molto particolare, diversa da quella che avevamo noi, un'idea del bene e del male anche differente, una religiosità molto molto diversa dalla nostra. Ecco, questo ci porta un po' al tema poi del vostro viaggio. Siamo arrivati un po' ai valori. Allora, nei valori che voi avete esplorato discutendo con Farinetti di come si può migliorare il nostro paese, quali elementi sono emersi secondo lei più interessanti per migliorare questa nostra Italia? A qualche tratto americano, nelle proposte che Farinetti fa, cioè, forse quello più evidente per me è quello che riguarda le tasse. Cioè, lui, come tanti di noi, pensa che si debba in Italia raggiungere un tipo di atteggiamento nei confronti delle tasse da parte del contribuente come quello che c'è in America. Cioè, in America evadere le tasse è un modo di infrangere la legge, ed è un modo grave, è un modo che la gente disprezza. È una delle cose che andrebbe raddrizzata da subito. Naturalmente un rapporto col fisco, diciamo, pulito, onesto, di quel tipo americano, lo si ha più facilmente con un fisco giusto, che in Italia non c'è. Per cui, ad esempio, lì in una delle mosse di OSCAP c'è una risistemazione del sistema fiscale che a me personalmente comincia abbastanza. E che potrebbe indurre effettivamente a una rivoluzione culturale in Italia, per cui pagare le tasse finalmente diventa un gesto da persone responsabili e normali e non una stranezza. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter, 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Nel maggio di 40 anni fa usciva il grande successo di Marvin Gaye, What's Going On. In occasione dell'anniversario, il 31 maggio, esce un doppio CD che raccoglie, oltre alla versione rimasterizzata dell'album originale, molti pezzi live e ben 14 brani inediti di Marvin Gaye, What's Going On. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.